Dai, adesso questa sera siamo rilassati, esatto. E veramente vorrei che fosse una chiacchiera un po' libera. Naturalmente tu ti rendi conto che è un po' come chiedere all'oste se il suo vino è buono. Esatto, è un po' come sì. Però insomma, dai, e dicevano. Lui preferisce la birra. Esatto. Ma fair enough. Il tuo vino è stato buono? Allora posso dirlo io. Il tuo che il vostro vino è stato buono? Posso dirlo io? Sì. Io guarda, siamo felici che tu lo dica. Ma in effetti, dai, sinceramente lo dicevano un po' tutti, dicevano che la manifestazione è evidentemente in crescita dal punto di vista dell'offerta, delle gallerie, dal punto di vista del pubblico, della composizione del pubblico, quindi della quantità di collezionisti dall'Italia e dall'estero che sono venuti a visitarla. Aggiungo, perché è una cosa che magari non si cita, non si ricorda, ma insomma noi ce ne rendiamo bene conto, che c'erano dei galleristi italiani di livello internazionale in visita, che non si vedevano davvero da un po' di tempo, curiosi di questa, diciamo, prima vera edizione del duo Menegoi Bartoli, perché sai che l'anno scorso avevamo avuto veramente pochi mesi per mettere insieme la manifestazione, e che c'erano critici, direttori di museo, curatori indipendenti e istituzionali, e insomma tutte insieme queste persone fanno una massa critica, ecco. Ah certo, quanto è difficile essere curare la fiera più antica che abbiamo in Italia e anzi cos'è, la terza più antica nel mondo se non sbaglio? Sì, credo di sì, terza o quarta. Adesso dico qualcosa io, poi magari Gloria darà la sua versione. E per me come curatore è difficile perché insomma io vengo da un passato di curatela indipendente, il che vuol dire che io facevo le mostre, certo, e scrivevo, che come sappiamo è una cosa molto più lineare, diciamo. Esatto, stavo per esatto. dire facile, ma dico lineare. No, lineare, dici certo. Ben lineare, e naturalmente poi si finisce per occuparsi di un po' di tutto, anche di certo. questioni pratiche, logistiche, cercare i soldi, tutte queste cose qui. Però diciamo che queste questioni quando si è direttore artistico di una fiera passano in primo piano, sono proprio quelle fondamentali che decretano il tuo successo o insuccesso, e da questo punto di vista non ce l'avrei mai fatta senza l'aiuto di una che invece viene da 10 anni di lavoro in una fiera che è altissima a Torino, appunto, ed è Gloria, e non è una fiera qualunque, no, esatto. È una fiera eccellente. No, devo dire che appunto il mestiere di direttore o vice direttore di una fiera purtroppo non te lo insegna nessuno, quindi devo dire che se ho dato un mio apporto iniziale alla direzione di Simone è stata quello un po' di dare delle appunto direttive, delle linee su cosa vuol dire fare una fiera, e spesso io cito, l'ho fatto anche ho partecipato a una lezione al Gioca, tra l'altro io avevo studiato al Gioca e quindi sono stata contenta di andare dall'altra parte della scrivania, e ho citato Sergio Endrigo, perché comunque la canzone ci vuole un fiore per fare un albero, ci bla bla bla bla, è vero, per fare una fiera d'arte servono tanti ingredienti che sono uno serve all'altro, no? Ti serve dare buona attenzione ai tuoi partner, dare ovviamente il centro dell'attenzione ai tuoi clienti che sono i galleristi, ai clienti dei tuoi clienti che sono i collezionisti, e è tutto un po' sì, esatto. è una sorta di circolo un po' particolare, esatto, perché non poi si può dire ma chiosca perché non è una cosa dentro l'altra, ma è proprio piuttosto una cosa che chiama l'altra, è per quello che appunto, perché fra l'altro appunto volevo approfitto che siete qui proprio per spiegare anche ai radioascoltatori la differenza tra una fiera e una mostra, perché è i non addetti ai lavori vedono Arte Fiera come se fosse semplicemente una grande mostra collettiva, certo, magari simile a una biennale. Poi detto questo, appunto, adesso su questo potremmo parlare anche per molto tempo, immagino. Già, le somiglianze sono forse maggiori di quello che sembra a prima vista, ma comunque. Esatto, no, perché comunque appunto avete una sorta di scatole cinesi di clienti, sì, che, perché naturalmente la fiera vuole pubblico, i galleristi vogliono pubblico, però un determinato tipo di pubblico, sì, esatto, per cui bisogna anche insomma barcamenare, e in più gli addetti ai lavori vogliono qualità, cioè voglio dire, cioè, sì. Sono degli equilibri, esatto, e alla fine importanti. Quando va male è tutta colpa vostra, naturalmente, e invece se va bene è un po' il clima che è bello, no, sì, esatto. scherzo, se va perché bene invece è grazie agli artisti, alle esatto. gallerie, naturalmente voi non avete fatto nulla, e grazie che finalmente a Bologna non ha nevicato durante i giorni, esatto, di fiera. No, infatti devo dire che, questa, che questo nuovo clima, malgrado i problemi legati, sì, all'ambiente indiscutibili, questo clima primaverile è abbastanza particolare, perché certo, effettivamente spostare la fiera un po' più verso il caldo non è che farebbe poi c'è schifo. Un calendario turistico. No, infatti effettivamente Artefiera era la prima fiera in assoluto, già, fino a pochi anni fa, già, adesso invece ce ne sono altre che partono prima, naturalmente, perché poi c'è anche da dire che la concorrenza è diventata spietata. Quante fiere ci sono al mondo? Ma Angela Vettese, in un articolo su Sole 24 Ore, che prendeva appunto Artefiera come centro per parlare anche delle fiere in generale, faceva un calcolo nell'ordine delle centinaia. Però se guardi già soltanto appunto ai mesi, ai nostri appuntamenti, certo, che giriamo per fiere durante l'anno, tra l'altro partiamo domattina. Infatti poi volevo Ginevra. Chiedervi anche questo, quante fiere vedete? Le vedete, cioè le importanti, tante, le vedete tutte? Una decina. Ok. Sì, non di più, anche perché ci andate? No. No, perché è troppo vicina ad Artefiera, naturalmente. Esatto. Perché io ci sono stato una volta, devo dire che tutti i primi di dicembre mi ricordo che c'è Miami, dico ma perché non sono una bella Miami, spiaggia californiana, lo so, vale anche per un'altra cosa che vi volevo raccontare, poi io non so perché parlo io anziché voi, ma che io mio padre faceva la fiera campionaria nel 1976, seconda edizione ufficiale di Artefiera, io a 6 anni mi sono infilato dentro una siepe e mi sono andato a vedere Artefiera da solo. Beh, vabbè, sei un veterano, esatto, puoi vantare dei titoli di nobiltà rispetto ad Artefiera che nessuno di noi due infatti può l'ho raccontato a Francesco Ribuffo, che era qua qualche due settimane fa, era venuto a raccontarci la storia della De Foscherari, che effettivamente è molto legata ad Artefiera. Indissolubilmente. Noi la scorsa edizione abbiamo fatto un omaggio appunto a Pasquale Ribuffo, certo, e Franco Bartoli, perché erano stati fondatori di questa importantissima galleria, e il secondo passaggio di questo omaggio è adesso al Mambo, perché anzi, se chi ci ascolta non è ancora andato, è bene andare in Project Room al Mambo. Certo, fino al primo marzo c'è la mostra che racconta un po' di storia della De Foscherari, perché effettivamente un altro bel po' di storia me l'ha raccontato Vittorio Boarini con questo tomo da 20 kg di scritti importantissimi che ci vorrebbero, cioè ci vorrebbe un mese di trasmissione ininterrotta per poter raccontare. Ma invece raccontatemi di tutto quello che succede attorno alla fiera, quanto siete responsabili di tutto il delirio di Art City che succede eccetera, e quanto vi piace, quanto è difficile poi anche gestirlo, immagino. Ma la risposta lineare sarebbe: non ne siamo responsabili, okay, nel senso che la cosa, perché è davvero così, dal punto di vista formale, esatto, l'intera faccenda è in capo a Lorenzo Balbi, certo, il direttore del Mambo, che la coordina, e naturalmente in capo ai responsabili. Perché fra l'altro anche questa è abbastanza una novità, adesso non lo ricordo di preciso, però ricordo che comunque la fiera invece c'è stato un periodo che gestiva proprio le mostre esterne. Adesso non chiedetemi in realtà è stata proprio la fiera a promuovere, a creare questo circuito off. Con adesso esattamente e adesso con questa, data la sua espansione e anche giustamente, insomma, il fatto che si tratta di situazioni diverse benché collegate, mi sembra opportuno che sia un'altra persona a occuparsene, ma comunque quello di Lorenzo, al di là sarebbe opportuno che se ne occupasse anche qualcun altro, forse Lorenzo potrebbe anche essere d'accordo, le cose che deve fare, infatti, esatto, cioè, la quantità di cose che deve fare, infatti l'avevamo chiamato a un meeting del forum dell'arte contemporanea e naturalmente non aveva nemmeno il tempo di respirare, comprensibilmente, per cui sì, oltre ad aver curato tipo 4 mostre, certo, eccetera, esatto, no, infatti appunto la risposta lineare è questa, è Lorenzo Balbi, dialogo con i responsabili delle diverse istituzioni che compone questo programma. Poi, grazie, in virtù del fatto che per fortuna c'è un fitto dialogo fra noi due e Lorenzo, siamo vicini generazionalmente, certo, e abbiamo dei gusti compatibili, abbiamo delle idee condivise su cosa è meglio per la scena dell'arte in città. Ebbene, grazie a questo, poi magari diciamo che qualche evento può essere anche frutto di un suggerimento, certo. Lorenzo magari coglie un tema che vogliamo dare, sì, alla fiera e lo rimbalza, per esempio nel riallestimento di una sala, visto che oggi, che in questa edizione abbiamo tanto insistito sulla pittura, lui ha riallestito una delle sale della collezione puntandolo sulla pittura italiana degli anni 60, soprattutto in ambiente romano, insomma, certo, ecco, cose, certo, di questo, sì, genere. Oppure la mostra a Palazzo dei Toschi di Davide Ferri e comunque sulla pittura, quindi, esatto, questo, e dunque siete voi che spingete sulla pittura, è colpa vostra in questo momento. Sì, senz'altro. Okay, come mai questo ritorno alla pittura? Per due ragioni. La prima è che la pittura è molto vivace, io credo, in questo momento, a livello di mercato, di creatività in primo luogo, di riconoscimenti istituzionali e critici, il che è una discreta novità. Non so se sei d'accordo, sì, certo, rispetto a qualche anno fa, no? Il fatto che arrivi un curatore come Ralph Rugoff alla Biennale di Venezia e proponga una quantità sostanziosa, sì, di pittori nella sua mostra internazionale è una cosa che qualche anno fa alla Biennale di Venezia sarebbe stata, certo, strana, certo. E quindi questo in primo luogo, e poi in secondo luogo ragioni di marketing, perché sai, chi fa una fiera deve tenere in primo luogo presente questo genere di cose. Già prima di questo incarico mi stupivo, dato questo stato di effervescenza della pittura, che non ci fosse nessuna fiera in Italia o all'estero una sezione dedicata alla pittura contemporanea. Ne avevo perfino parlato con dei colleghi che dirigono le fiere, dico, ma come mai non? E avevo trovato degli interlocutori appunto un po' scettici. Io invece pensavo che fosse una grande chance, e nel momento in cui ho potuto farlo l'ho colta. Fantastico. Vi do un attimo di pausa e mettiamo, prima di tutto sentiamo questa cosa. Qua mi ha dato un errore. succede così, sentiamo un pezzo così questo forse, sì, questo è partito. Volevo anche dirvi che la musichetta che sentite di sottofondo non è il vinile che ho comprato. Metropolis spaceship, amidst the fancy parties and galas and lounging poolside, the members aboard soon realized they'd made a grave mistake. They hadn't known that all the Earthlings are spiritually connected to the sun. Thus, as the sun began to fade, they too soon would perish. A leading scientist aboard figured out, using the Nicky Booty Maximus formula, that the only hope for survival was to return to the Earth and restore the energy of the sun. The return trip was made rather quickly, as their breathing was fading fast as the setting sun. My socks, my slippers. bella sta cosa. Mi finisce la canzone senza. Era cortissima. Ah sì, era solo due minuti, ecco perché. E bentornati a Coxo Spaziale. Rimetto la musichetta di sottofondo perché, ahimè, ho tentato di far andare questo vinile perché. Per la gioia di Giumbo, che è nostro comune amico, ho comprato perché sai che adesso Giumbo si è messo a fare il curatore di mostre, ha curato una mostra all'Esprit Nouveau che si chiamava quella sugli anni '80, prima di questa, di questa assieme a Lorenza, che invece questa. Dilettanti geniali, forse? Dilettanti geniali, grazie. È sempre stato un appassionato. Esatto. Esatto, perché in questa fantastica rivista c'era anche lui che impaginava. Ma ritorniamo alle fiere, anche perché fra un po' arriva il vostro taxi e dice: inesorabile. Inesorabile, dice sono qua. E l'unica cosa che l'unica con cosa questo di... basso livello di radiofonia, non volevo questo. Ma questa non è una trasmissione, è un esperimento psicosonoro. Esatto, no? Infatti, aspetta, che volevo anche farvi sentire questo è bellissimo, Paesaggi spaventosi, ecco. Oltre a questo, bella arte contemporanea, ecco. E dicevamo, no, l'unica cosa che posso dire contro questa arte fiera che avete fatto è l'ingresso. Questo ingresso stranissimo, che effettivamente ha reso tutto abbastanza surreale, perché mi ha detto Chiara Pergola, una nostra ospite quasi fissa della trasmissione, che lei l'ha fatta a piedi e passi in mezzo cioè tipo a 2 chilometri di stand vuoti, cioè di padiglioni vuoti. Io l'ho fatta in bus, cioè il primo giorno sono venuto in bicicletta direttamente bello come il sole, sì. e invece l'altro giorno l'ho fatto con la navetta, che effettivamente anche quello è abbastanza, anzi quasi più strano, perché passare in mezzo alla fiera con un autobus è singolare, è vero? Abbastanza, però, insomma, singolare, però. Converrai, è abbastanza anche pratico. No, certo, no, devo dire che non ho fatto infatti. No, ed effettivamente anche voi due sembravate due usciti da Star Trek, perché infatti quando ti ho visto, Gloria, non ho potuto non dirtelo, perché eri veramente spettacole, cioè, con questi vestiti meravigliosi. Lei è brandizzata, assolutamente. Ah, wow, sì, fantastico. Sì, stilista di Torino. Ah, grande. Fagli i complimenti, perché veramente notevolissimi. Io purtroppo, non essendo bello come Gloria, non sono bravi, i vestiti me li devo comprare, sfortuna. Ah, ok, così. Non si può essere direttori e poi essere belli, voglio dire. No, quello è un privilegio che lascio ad Andrea Bellini quando era direttore di Artisti. era bello, bravo, alto, insopportabile. Ho capito. Sì, a parte questa cosa qua, devo dire che la fiera è funzionata molto bene, e anzi mi ha un po' ricordato, non so se anzi tu sicuramente te li ricordi, le fiere di Silvia, appunto, di Silvia Evangelisti, che secondo me c'è stata una forbice di tempo che funzionavano veramente bene, erano su due piani, con il moderno sotto, il contemporaneo sopra, per cui anche non ci si doveva scalciare tra vecchi e giovani. Adesso non è più così, perché poi noi stiamo invecchiando ormai siamo pronti poi ci sono un sacco di giovani che si appassionano di arte degli anni, e poi anni, ci sono giovani gallerie che riscoprono artisti degli anni 60, quindi comunque trovavi delle giovani gallerie nel padiglione dedicato al moderno e al dopoguerra. Verissimo. Raccontateci dei premi, come funzionano questi premi che le fiere danno, anche di questi, siete di quanto siete responsabili di 100%. Questi 100%, infatti. Tranne a chi va il premio, però. Vabbè, effettivamente responsabili nel senso che li scegliamo, li organizziamo, dopodiché certo non siamo responsabili della scelta dell'artista, anzi io veramente mi pregio di non aver dato nessuna imbeccata alle giurie, ma neanche proprio vagamente, anche perché non avremmo avuto il tempo di farlo. Sì, in primo luogo per questo, cioè magari sono stato sfiorato dall'idea, ma è caduta subito per mancanza. Ma invece qualche imbeccata a qualche collezionista la date, tipo amico, gallerista che magari dice: ma no, ho quest'opera fantastica, ma nessuno me la compra, e voi no? Come funziona questa cosa? Fatemi un po' entrare nel vivo. Se facessimo così, faremmo dei favoritismi che potremmo pagare molto cari. Però, okay, certo, se un amico collezionista mi dice: sto cercando quello, dove vado? Io lo indirizzo con grande piacere. Certo. Cerco di ricordarmi dov'è il tale autore, dov'è il tal altro, chi vende questo, chi offre quell'altro, eccetera. In questo senso sì, anzi ce la mettiamo tutta per aiutare i nostri espositori. Vi devo dire questa cosa, che è una cosa secondo me, devo dire che in 20 anni che frequento la fiera annualmente, l'arte fiera annualmente, non mi era mai successa. Ero con una collezionista che cercava un autore specifico e siamo andati da questa galleria con cui questo autore lavora, e questa galleria ha detto: no, io quest'anno di lui non ho niente, vai da lui che ne ha. E questa cosa qua mi ha veramente sorpreso. Devo dire che sì, questo no? Questa atmosfera di collaborazione, devo dire, cosa, che mi è piaciuta moltissimo. Ma i galleristi a volte sono, insomma, sorprendenti. A volte sono insopportabili e a volte invece sono delle persone davvero generose e molto corrette. E anch'io sono stato testimone di cose di quel genere, di galleristi che prendono per il braccio i loro collezionisti, gli fanno scoprire un giovane artista, per esempio, di un'altra galleria. Fantastico. Semplicemente perché trovano simpatico il proprietario e bravo l'artista. Ne ho visti di casi del genere. Ok, no, questa è una cosa che fa piacere sentire, perché infatti, effettivamente, cioè, adesso visti dal di fuori sembrano un mondo un po' a sé, no? Un bel po' chiuso, anche se devo dire che grazie alla crisi del 2008 si sono un attimo un po' più aperti rispetto anche al tipo di approccio che avevano, perché mi ricordo benissimo che alcuni veramente maltrattavano il pubblico proprio per non... Ma comunque poi sia una grande famiglia, comunque col fatto che ci sono così tante fiere, ci si ritrova sempre tutti più o meno nelle fiere, alla fine la comunità. Sì, questo è vero. E però proprio il fatto che sia appunto una grande famiglia a volte genera, esatto, quei fenomeni di chiusura di cui parlava Stefano, che io ho trovato antipatici sempre, prima della crisi, dopo la crisi, sempre. Io sono per un approccio, sono per non fare deroghe sulla qualità, e che a volte vuol dire anche, lo sai benissimo, sull'arte contemporanea, il fatto che l'arte è difficile da capire, certo, che non arriva subito. Quindi da un lato nessun compromesso su quel fronte, ma dall'altro invece poi tutti gli sforzi possibili per far capire, per comunicare, per dare strumenti, eccetera. Ecco. E dunque, vi fa piacere o non vi fa piacere che l'anno prossimo ci saranno ben 3 fiere satellite di altre fiere? Oddio, quali mi sono perso? Dunque, quest'anno c'erano Paratissima, che nasce sì, è vero. L'anno prossimo vero, ci sarà anche Setup. Tornerà Setup come un che è stata la prima fiera. Esatto. Come un booming. sì. Ma sai, tutto quello che crea, voglio dire, fermento, movimento in città in quei giorni, relativamente all'arte contemporanea, per me va bene. Okay. Per me va bene. No, perché come sapete, Bologna è un attimo diverse, provinciale, per cui, cioè, per cui effettivamente è un attimo che una fiera magari prenda troppi clienti della vostra, eccetera. Ma no, di questo non siamo preoccupati, perché in realtà sono proprio target diversi. No, infatti, assolutamente. Ma insomma, l'organizzatrice di Booming, quando si occupava ancora di Setup, ci siamo incontrati, abbiamo chiacchierato un po', ce l'aveva chiarissimo, insomma, nel senso, certo, che è proprio un'altra fascia di prezzo, sono artisti più giovani, emergenti, c'è la cosiddetta urban art che invece noi non curiamo, certo, c'è proprio una certa demarcazione. Ecco, lei diceva in certi casi queste fiere satellite, che sia Booming, che sia Setup, può servire da incubatore per delle gallerie che magari poi diventano più strutturate, lavorano con degli artisti che hanno invece un'appartenenza più solida al mondo dell'arte contemporanea, e allora arrivano ad Arte Fiera, ecco. Considerava addirittura un indice di successo della sua manifestazione, però parlava di setup, di subooming, non mi pronuncio perché purtroppo non siamo riusciti a metterci piede anche perché gli orari e i tempi sono praticamente gli stessi, e lo stesso vale per tutte le mostre che vi siete persi, perché poi alcune di queste duravano i giorni i giorni della fiera, non tante fortunatamente, grazie al cielo, infatti la maggior parte durano ancora, e così riusciremo a recuperare tutto quello che non abbiamo visto. Però quelle è vero che hanno inaugurato nei giorni precedenti la nostra inaugurazione non le abbiamo perse nessuna, quelle che purtroppo non si sono inaugurate da giovedì, e per fortuna quelle che continuano appunto ancora qualche giorno o comunque qualche mese andremo infatti a vederle. Voglio invitare Silvia Evangelisti a parlare di Luciano De Vita, che come vi dicevo prima ho apprezzato molto, e anche Maura Pozzati e Fabiola Naldi, le chiamerò a raccontarci di questo Three Body Configuration. Bellissima, una delle più belle che abbiamo visto. No, perché infatti dicevo, no, non lo dicevo a loro, infatti, lo dicevo a qualcun altro, ma secondo me è una bella idea anche questa di istituzionalizzare un artista di un livello naturalmente diverso tra Valley Export e Claude Cahun, e invece appunto prendere un Ottonella Mocellin e istituzionalizzarla, anche perché storicamente il lavoro ha già 30 anni. Ma certo, sono perfettamente d'accordo, guarda, è stata una scelta che all'inizio, che sulla carta mi ha spiazzato, e poi in mostra mi ha convinto, sono d'accordissimo. Bravi. E poi e questo secondo me può comunque leggermente aiutare un po' il mondo dell'arte italiano, che come sapete è leggermente un po' svantaggiato per tante ragioni, anche se stiamo andando un po' meglio rispetto agli anni passati, no? Come lo vedete il futuro dell'arte contemporanea italiana? Beh, insomma, sì, anch'io trovo che ci siano dei segnali di apprezzamento oltre i confini nazionali, e questo ovviamente fa piacere e aiuta. E poi sai, ovviamente questi destini ci stanno a cuore, perché la missione che ci siamo dati, che abbiamo dichiarato con grande chiarezza fin da subito, è stata quella di collocarci come fiera di riferimento per l'arte italiana. In primo luogo per l'arte italiana, noi diciamo del XX e del XXI secolo, del Novecento storicizzato e del contemporaneo. Ecco, questa è veramente l'ambizione numero uno. Quindi chiaramente sentire qual è il polso dell'arte italiana, e sapere che c'è interesse, c'è nuovo interesse all'estero, per esempio, per l'arte italiana, non solo quella storicizzata ma anche contemporanea, è una cosa che insomma mi sembra notevole. Poi certo, sarebbe molto auspicabile che anche i nostri politici riconoscessero le condizioni molto difficili in cui lavorano, per esempio, i galleristi rispetto ai loro colleghi stranieri, per cui devono vendere delle opere, e a volte si tratta delle stesse opere che vendono i colleghi stranieri, con un'IVA che è in certi casi il doppio di quella dei paesi in cui lavorano i loro colleghi. Questo è uno svantaggio massacrante, insomma. Certo, bene, io vi ringrazio infinitamente, perché il vostro tempo, cioè in realtà potete naturalmente cancellare il taxi e rimanere per tutta la trasmissione, ma so che dovete andare a fare le valigie. Sì, è così. E dunque vi ringrazio infinitamente, ringrazio Simone Menegoi, direttore di Arte Fiera, Gloria Bartoli, vedi? Non lo so. Luca Bertolo, perché sei entrato nel clima della pittura, cavoli. Ma comunque non ce la farò mai, io mi ricordarmi. No, infatti, un cognome che non ti entra in memoria. È così. No, ma è che sono spiazzato dalla sua bellezza. E dunque è così. In fondo rimango. Sei scusato. Allora sei scusato. Rimango un timidone, in fondo. E niente, vi ringrazio infinitamente e vi aspetto l'anno prossimo, la settimana prima di Arte Fiera l'anno prossimo, va bene? Sarà un momento perfetto. No, non sarà facile, ma ci possiamo provare. No, in realtà siete benvenutissimi a tornare a Coxo Spaziale quando volete. Visto che già tutti oggi ci chiedevano: ma allora cosa farete il prossimo anno? E abbiamo detto: un attimo, quando lo sapremo, verremo a raccontarlo. Esatto, magari ve lo chiedo verso settembre, così. Ma no, ma scherzi. Forse anche prima dell'estate. Ad aprile avevamo annunciato. Dobbiamo avere le idee chiare. Era abbastanza ti portiamo presto, l'uovo di Pasqua, quindi. Fantastico, allora ci rivediamo ad aprile, guarda, me lo segno, e dunque le pubblicità delle 7:30 leggermente in ritardo, però prima sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Vuoi ricevere il meglio della settimana di Radio Città Fucico direttamente nella tua casella di posta elettronica? Coxo Spaziale! Non mi ricordo se questa canzone l'ho messa anche prima o no, perché sai com'è, non è che tutti i giorni il direttore di arte, il direttore e la vice direttrice di Arte Fiera ti vengono in radio. Ma che bello, sono carini, Fantastico. E poi non se la tirano per niente. No. Che bello vedere della gente che non se la tira, della gente di tra virgolette potere che non se la tira. Traspare che sono di infinita qualità. No, e poi sono appassionati in quello che fanno. Si vede. Molto bene. Allora, innanzitutto, Lia Govi, grazie per essere qui con noi a Coxo Spaziale. Io sto facendo un gran casino con la musica oggi, ma va benissimo. E grazie a te. Ci hai portato un... una mia dimensione. Un libro. Sì. Quando è uscito questo libro? Ma verso metà dicembre. È fresco, fresco. Fresco. Aspetta che vediamo se... Sì, ok. Metto di nuovo la musichettina così. Come si chiama questo libro? Che io già avevo sbagliato, ti ho sbagliatissimo tutto subito. Nelle terre di Arret. Ecco, ma uno dovrebbe sapere che cos'è Arret? Cioè uno che magari ha studiato, non come me che ho fatto l'artistico. Ma no, perché è un gioco alla Leonardo da Vinci. Ah, okay. È terra riflessa. E dunque, ma è, ma è un libro per bambini? O cioè un tomone enorme? Che di 460 pagine. Ah, però, non scherzi neanche tu. Ci sono le figure. Tutto scritto e illustrato da te. Hai visto? Non mi sono trattenuta per niente. Mi sono immaginata un mondo in cui entrare. Io in realtà non mi sento una scrittrice, ma... Una pittrice verbale. No, infatti io non ti ho conosciuto né come pittrice in realtà né come scrittrice. Cioè tu ti conoscevo come graphic designer, giusto? Hai visto? La vita come ci cambia. No, infatti, una volta ero un graphic designer anch'io. Ah, però dopo aver conosciuto te, effettivamente. Tu lo sai che io ho fatto il grafico, tipo finito Edge, ho fatto il grafico per 10 anni. Ti ho fatto innamorare della grafica. Sì, esatto. È stato soprattutto Federico Cortellato che salutiamo caldamente. Sai che è venuto a fare il DJ, però si era dimenticato la musica. Perché lui la musica ce l'ha dentro. Esatto, infatti. E dunque la suonavamo come sto suonando oggi con questo così, con questa radiolina che. Bene, siamo ritornati a Coxo Spaziale per abbassare il livello della puntata, appunto. Eccoti Lia Govi, yeah. Dunque, dove lo troviamo il tuo libro e che cos'è? È un fantasy quantico, si trova comunque sia nel web che nelle varie... Come nel web? Cioè io lo scarico così? No, lo richiedi, si compra sì, non sa, però web. Non si può dire Amazon su Radio Città Fucico, dopo ci chiudono. Nelle librerie si richiede, io consiglio sempre di richiederlo al telefono, sì, perché non tutti ritengono questi fantasy e ho voluto raccontare un po' un modo per conoscersi e fare socialità e divertirsi e avere un nuovo inizio abbracciando l'arte, cioè giocando con l'arte, che diventasse praticamente parte della vita naturale per divertirsi. Si va a fare, si va a prendere una birra, si va a fare una performance, un flash mob, ci si conosce un attimo in leggerezza. Stiamo però andando verso quella direzione, no? Pensa che io l'ho scritto 8 anni fa. E infatti, no, è incredibile. E l'hai pubblicato solo adesso. Cosa aspettavi? Avevi cose migliori? Un po' che le ragazze crescessero. Ok. Ah sì, perché è porno dentro? No, forse il prossimo, ma questo ancora no. Infatti volevo regalargli questo mondo anche un po' a loro, far vedere che si può giocare e ridere mettendoci densità. C'ho Oscar Moroni che mi scrive: scommetto che stasera non li leggi mica i miei messaggi, patatino. Puntata seria, poi buona la Bertoli. Avrà su per giù la mia età, secondo me è più giovane, comunque, vabbè. Scusa. Veramente okay. Incantevole comunque. Sì, abbastanza. Alla Bertoli. Ci ha lasciato un po' così. No, dicevamo, ma infatti ha scritto Bertoli, si chiama Bartoli, cavoli, non ce la farò mai. No, ritorniamo sul tuo libro, ritorniamo nel mondo del tuo libro. Nel mondo di Harry. Esatto. Anzi, adesso vengo di là con te, così me lo. Anzi, così me lo passi. Sì, passi, dai, dammelo in mano, così perché ti faccio delle domande specifiche. Ma vieni qui, vieni vicino come un tempo. Ah, no, ma non posso, devo stare in regia. E ci sono. Parla. Infatti praticamente si incontrano in questa scuola che diventano case del sapere dove ci si svela, dove ci si mette alla prova con l'esperienza nell'arte e nei vari talenti che uno dimostra anche nell'esperimentarli insieme agli altri. A colpi d'arte però, perché la protagonista è comunque un artista, perché conoscevo un attimo di più la realtà. Quindi ho fatto delle ricerche anche di apparati avvenieristici che potrebbero essere in auge, cose semplici, cose molto più sofisticate, come una sorta di computer ESP che si attivano dentro di noi. Ma dunque come l'immaginazione, praticamente. Ma dunque tu, che prima ci hai detto che vai a tutte le biennali di Venezia, ti ricordi quella biennale in cui davanti c'erano tipo 10 persone che facevano 10 performance diverse? E io non ho fatto il tempo a giocare con loro, sì. No, perché forse perché io di solito vado all'inaugurazione. Ed effettivamente questi probabilmente erano lì solo per il giorno dell'inaugurazione, perché erano degli outsider della biennale. Però ce n'era uno che si grattugiava la faccia con un sasso, un altro che si rotolava nel fango lì in un giardinetto, un altro che si era buttato addosso tipo un mezzo chilo di pigmento rosso fuoco, e un'altra che invece faceva un balletto tipo danza del vento, però eccetera. E in questa infilata, no? Sì. Cioè, nel vialetto dei giardini, proprio prima di. Io, cioè, man mano che li guardavo, dicevo, ma quanto sono strani, però mi veniva proprio questa gioia interna pensando, pensa se tutto il mondo facesse quel cazzo che gli però pare. Però tu così, dove eri, capito? In quel momento, adesso non pensavi a quello che dovevi fare prima, dopo, eri lì. Ero lì, esatto. No, e io sono convinto che se tutti diventassimo più creativi saremmo troppo contenti. Cioè, la nostra vita cambierebbe in maniera esponenziale. Poi naturalmente non la tua, perché tu sei già creativa, tu cosa fai? Disegni tutto il giorno. Cosa fai di mestiere adesso, oltre a scrivere? È di copertura, hai capito? Faccio la casalinga. Fantastico. Poi tolgo gli occhiali. Sciogli un attimo i capelli. E dipingo un piccolo atelier nel terrazzo chiuso col PVC. Ma fantastico. E a parte quando mi si congelano le mani o mi sciolgo a 40 gradi, per tutto il resto del tempo mi metto qualche tela grande. Perché invece le illustrazioni di questo libro sono dei disegni a penna colorata. Cioè, sai, sono che mi ricorda, tu non le, no. Mi ricordano molto quelli di i diari di Frida Kahlo. Oh. Ma sono onorata sì. di questo. No, perché poi sono belle anche queste scansioni. A me la penna scansionata e messa a tutta pagina piace tantissimo. Anche perché quando io immagino delle, cioè proprio dei. Aspetta un attimo, guarda, che mini video. Che sto plin plin comincia a darmi un po' sui nervi. Metto il pezzo dopo perché c'è una playlist dove non cantano. Perché quando cantano in radio, cioè se tu parli, qualcuno canta dietro, ogni tanto il tuo cervello si mette ad ascoltare le parole di chi canta e non va bene perché devono ascoltare noi. appunto. Però sto plin plin comincia a. Siccome erano 6 minuti. Ad esempio, ci sono delle case che hanno dei raggi ascensionali, no? In cui tu entri. Case? Con, sì. Ok. A sospensione, naturalmente. Mm. È tutto a sospensione gravitazionale, cioè ho bisogno di leggerezza e quindi è tutto in sospensione. Sei un po' una trekkie anche tu, dunque, perché loro facevano finta di niente, ma loro due sono dei gran trekkie, cioè proprio non c'è nessuno si veste così se non è un trekkie, capito? E quindi ho visto la casa, ci sono andata dentro e l'ho descritta, quindi io dico così scrivo e poi la storia mi si giostra intorno. Per cui, cioè, ma dunque è un romanzo questo? È un romanzo. Un romanzo sì. Scritto in prima persona. Sì, di un nuovo inizio che fa questa scuola, c'è una promessa che non deve essere infranta e intanto che fa questo suo percorso con scuole d'arte in cui ti mettono alla prova nel sentire, guardando anche sperimentando proprio il buttarsi tipo nel giallo e vedere cosa provi prima e dopo averlo fatto. Ti danno una sorta di, più che educazione artistica, un'educazione al sentire e al vedere. E dunque il film quando esce? Ah, non lo so, in me gira da tanti anni. Ma anche un'anima non mi dispiacerebbe. Vorrei mandarla nelle Marche, sai, agli autori che hanno fatto certi cartoni animati fantastici. Ah, giusto. No, effettivamente, la ballata del coyote. Questo sole sembrava meraviglioso. Allo zenith avrei dato vita all'ultima delle ballate. Immersa tra i miei pensieri, non mi accorsi che tamburellavano alla porta. Restai qualche istante immobile per accertarmi di essere sveglia. Ci vorrebbe. Lanciai lo stick verso il polso e un dolore acuto rispose. Sono sveglia. Tirai la lingua della maschera lignea per attivare il visore della soglia. Ero nonnita. Cosa vuol dire essere nonniti? Bisogna leggerlo tutto sto libro per capire cosa sta succedendo. Sì. Ci voleva la mia amica Feda, la mia collega di questa radio, che lei fa teatro e avrebbe letto in maniera molto più esoterica. Sì, perché vai in ogni stanza, ogni personaggio che vai in un mondo tutto lui, ci sono dei maragual, perché io penso che la nonna è praticamente una sorta di sciamana, però che piano piano scema la magia per farti vedere quanto la magia è il tuo fare, il tuo vedere il mondo con occhi nuovi e fidandoti di te stessa. Quindi alla fine la magia in qualche modo sei sempre tu. La magia bianca, immagino. Assolutamente, colorata. Perché tu sai che a Torino, dove io insegno, no, bianca. Cioè, bianca. C'è la zona magia bianca e c'è la zona magia nera. E Gianmarco Montessano mi ha detto: stai attento, non rimanere a dormire nella zona della magia nera, perché poi vengono delle energie particolari che magari non ti fanno bene. Oh, indicamele dopo. Sì, sì, no, ma è facile. No, e poi il nero mi snellisce troppo, preferisco il colorato perché a me piace l'abbondanza. Grande. E dunque, hai detto che l'hai scritto 8 anni fa. Otto anni fa. Ma anche i disegni sono di 8 anni fa e i disegni sono contemporanei? No, nel percorso, intanto che lo rileggevo e lo ricorreggevo, li mettevo su carta perché poi non mi bastava più. E l'editore che cosa ha detto di questo libro? Cioè, l'editore è fantastico in quanto ha lasciato l'opera intatto. No, l'ha letto. Ha detto sì, stampiamolo, basta che. Ok. Infatti, questo è stato incredibile. Incredibile. A Vicenza, l'ho trovato a Vicenza. Altro Mondo Editore. Sì. Dove l'hai trovato l'Altro Mondo Editore? A Vicenza c'è anche il nostro Oscar Moroni, che era quello che. che mi scriveva prima, chissà se ci sta ancora ascoltando, se si è addormentato. Ho cercato un po' di editori in giro nel web, ho mandato un po' di PDF e un po' di fotocopie di stampe, okay. Poi certo. E sono stata fortunata che comunque dopo qualche mese mi hanno risposto in 6. L'altro mondo editore, nonostante chiedesse una piccola quota per aiutarsi, perché certo. È un piccolo editore, certo, però mi garantiva che l'opera veniva lasciata intatta. Che non è cosa da poco, sì, per mi un ha scelto qualche disegno, perché naturalmente io ne ho fatte una 60, ma se li avessi dovuti mettere tutti nel libro sarebbe costato una cifra pazzesca. Perché io gli ho chiesto proprio un prezzo normale, quindi 19 euro ormai è un prezzo normale. Sì, no, infatti poi per questo numero di pagine, 466 pagine, direi che 19 euro ci sta, con anche illustrazioni a colori, eccetera eccetera. Hai capito? E poi si stacca un po' la spina. Volevo anche regalare qualcuno che non sa più immaginare, perché ci sono tante persone che non sanno più immaginare. Come si può allora, un po' coi disegni e con le descrizioni, portarli in una dimensione parallela che tanto va di moda in questi giorni, in questi anni, e che a me piacciono tanto. Io ci vivo. E dunque questo è distribuito dall'altro mondo editore, sì. Su scala mondiale. Oddio, su scala mondiale in italiano non mai. Devi sapere un attimo adesso, l'italiano. Adesso però. Leggo la tua biografia. Lia Govi, modenese, nata nel 1971. Io ti facevo più giovane. Li porti bene. Dunque. Grazie. E nonostante i vari ruoli sociali e familiari, ha cercato di mantenere viva la propria natura creativa visionaria. Non c'è scritto che hai fatto il Venturi, però. C'è scritto su web, se qualcuno ci va a vedere. C'è scritto su Wikipedia. Oggi si augura che la narrazione della Terra di Harriet possa essere un luogo, non luogo, dove perdersi, per poi ritrovarsi al di là del grigiore dei momenti bui, in un futuro possibile. Bella sta cosa. Questo è proprio un libro da leggere d'inverno, no? Ma sì, perché gli ostacoli arrivano comunque, se ce li mettiamo anche noi, io penso che bisogna godersi le pause. E dunque che cosa consigli ai nostri ascoltatori che hanno un libro nel cassetto? Di rileggerselo? Primo. Tante volte l'ho certo. Riletto. No, ma infatti come funziona una scrittura creativa di questo tipo? Quante volte, quanta limatura c'è in un libro come questo, di 460 pagine? Tantissimo, addirittura avevo scritto un'altra parte della storia che ho cestinata e poi ho ricambiato tutto, perché comunque prima, almeno io funziono così. No, certo, anche perché tutti gli scrittori non prima sono... scrivo tutto a getto. Ok. Perché comunque mi viene un'idea della storia e poi dopo la rifinisco, gli do più corpo perché vedo più le ambientazioni, ma man mano che ci sto sopra, bisogna starci sopra. Ne creavo 2-3 ore al giorno in cui stavo lì. Tirate via alla TV. Ai ai ai. Guardi ancora la TV, incredibile. Io no. No, io l'ho guardata oggi, veramente dopo tanti mesi, indovina perché? Perché volevo sentire la Borgonzoni, non l'avevo mai vista né sentita né in televisione, cioè avevo visto qualche foto, ma non l'avevo mai sentita. E comunque non l'hanno fatta sentire, l'hanno fatto sentire. Ecco, vedi. L'ho sconfitto lo stesso. E così, e vabbè. E quindi poi di pensare anche al target a cui ti rivolgi. Quindi ho pensato ai 20-30 anni, perché chi è che non ha più di tanti inizi di 20-30 anni? Tanti. E questo diciamo che ti tira un po' su di morale, ti fa vedere che se ci credi e fai e ti dai da fare, qualcosa si muove. Come diciamo, un'aria da cosa nasce cosa, e non si è sbagliato tanto. Esatto. No, si trasforma però, non è come una la pensa a casa. No, a me questa idea di creatività orizzontale piace molto, ogni tanto ne parlo anche in questa radio, proprio della creatività di tutti, no? Cioè, perché? Sì. Perché non scriviamo tutti un libro? Perché non dipingiamo tutti? Perché non facciamo tutti un programma radio come questo? Perché non... eccetera eccetera io eccetera. Lo continuo a fare anche se non mi pubblicavano io l'avrei continuato a fare. Ne un altro finito, un altro ne sto scrivendo, sì? E non mi interessa, io continuo. Sei al terzo e continua a dipingere, serve a me. No, perché effettivamente poi c'è da dire che è interessante anche questa cosa qua, cioè tipo che comunque tutti gli scrittori hanno sempre scritto, poi nel momento in cui uno dei loro libri parte, no? Ecco, Dan Brown è un esempio, no? Codice da Vinci era il suo terzo, quarto libro, e dopo tutti quelli che aveva scritto prima, che nessuno si era calcolato, sono diventati best seller successivamente, eccetera. No, l'importante credo che sia il non cambiare, no? Cioè, se tu domani vinci il premio Strega, cosa succede? Qui io continuo a scrivere dei miei mondi paralleli. Che ci beviamo del Gran Strega sì, per festeggiare. Sì, corrato nel caffè perché per me è un po' forte. Hai capito. È finita anche la tua parte, hai Lia, visto? Come facciamo? Niente, né? Salutiamo con raggi di sole a tutti, come direbbero nel mio libro, e ostac. E stack. Bene, allora mi raccomando. Comprate nelle terre di Arret, com'è che si pronuncia? Arret, scusa, di Lia Govi, edito da L'Altro Mondo Editore. Wow! Fantastico. Dopodiché le parole del nostro direttore non possono mancare, che prima abbiamo avuto una piccola preview per sbaglio, perché io con questo mixer ho qualche problema ogni tanto. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale. Livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Lo rimetto. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. E questa è la sigla che è Llano se juega della signora. Aspetta, la signora. Mi barrio era un continente. Tomasa. La vita era un juego constante. Ciao, Lia. Crecimos con mucha gente. No todos fueron adelante. La vida se hacía en la calle. Con menos y nada, pudimos con todo y todo se hacía codo con codo. Espero que nadie me falle. Pasa el tiempo, las cosas del barrio no cambian. Aunque echo de menos el boomer, su buen rollo, su perfume. Y ahora voy camino para el barbero, que seguro que está la vecina y un cliente pidiendo consejo. ¿Qué pasó, Elvis? Mira mi pelo, déjame guapito, que tengo vuelo luego. Quería venir antes, pero no tuve tiempo. ¿Qué se cuenta el barrio? ¿Cómo están tus nietos? En mi barrio ya no se juega fuera de casa. En mi barrio ya no se juega fuera de casa. En mi barrio ya no se juega fuera de casa. En mi barrio ya no se juega fuera de casa. Nadie sale a vacilar a jugar. Mira cómo esto se prende. Cuando llega gente del barrio, encienden la radio, forman la rumba y obtienen lo que es necesario. Que cunda, de la cuna a la tumba la onda. Estamos chill, sintiendo el swing. Doble golpe de conga. Aquí es donde nací, donde me crié. Después de todo pude entender que con poco la pasamos bien. Recuerdos tengo más de 100. Oye, que viva la gente que me vio nacer. Quería venir antes, pero no tuve tiempo. ¿Qué se cuenta el barrio? ¿Cómo están tus nietos? Oye, cuéntame cómo se hacía. La banda bien, pasito a paso. Parece que nos van haciendo caso. En mi barrio ya no.